In principio, il padrone della vita sognò valli e montagne, fiumi e foreste, animali e uccelli. Si svegliò e volle rifare il mondo che aveva visto. Diede al sole il potere di illuminare la terra e alla terra quello di germogliare. L'acqua purificava, mentre il vento portava musica e vita. Agli esseri umani diede il potere di sognare, e poiché non conoscevano nulla, mandò loro un maestro. Il suo nome era Nanabush. Aveva orecchie di coniglio e amava scherzare, fottere e ingozzarsi. Furono queste le prime abitudini che trasmise agli uomini, così che potessero vivere in pace quanto lui, che se la spassava in compagnia di uccelli e fiere, e aveva soltanto un nemico, il popolo dei serpenti, che abitava in fondo alle acque. Una mattina d'inverno, il fratello di Nanabush uscì a cacciare con le sembianze di un lupo. Era molto pigro e dopo mezza giornata era sempre di ritorno. Così la sera, non vedendolo rientrare, Nanabush salì in cima alla collina più alta, scrutò il mondo e quando scorse orme di lupo in mezzo al lago ghiacciato, capì che i serpenti avevano affogato suo fratello. Scese a riva, si tramutò in un salice, affondò le radici nella sabbia e attese, finché sonno e stanchezza non ebbero la meglio. Fu svegliato dal suono di un gigantesco tamburo. Aprì gli occhi e vide due serpenti enormi che si asciugavano al primo sole d'estate. Il boato che scuoteva la valle veniva dai loro cuori. Nanabush scagliò una pioggia di frecce, ma quelli scivolarono in acqua e scomparvero. Allora iniziò a perlustrare le sponde in cerca di un ingresso alla loro dimora sommersa. E mentre andava in giro, scorse una donna che piangeva seduta su un tronco. «Che succede?» domandò. «Il maledetto Nanabush ha ferito i miei fratelli», rispose la donna. «Quel bastardo! Non bisogna mai fidarsi di lui. Come posso aiutarti?» «Sto raccogliendo cortecce di vimini per farci un laccio e catturarlo». Nanabush affiancò la donna e mentre spellava i vimini si ferì apposta con il coltello, fece sgorgare il sangue e subito lo bloccò con un intruglio. «Tu devi essere un grande medico», disse la donna. «Perché non vai a curare i miei fratelli?» E indicò a Nanabush la strada per il mondo sotterraneo. Si salutarono e dietro la prima curva Nanabush prese l'aspetto della ragazza serpente. Quando raggiunse la porta, i guardiani lo lasciarono entrare ed egli si trovò in una grande sala dove i due serpenti che aveva colpito erano distesi, le frecce conficcate nel dorso e il fiato corto. Poco più in là, il cadavere di suo fratello aveva smesso di respirare. Nanabush ringhiò, fece un balzo in avanti e piantò le frecce ancora più in profondità nel corpo dei serpenti. «Avete pagato per mio fratello!» gridò. E riuscì a scappare prima che le guardie potessero trattenerlo. Subito, le acque del lago cominciarono a salire lungo i fianchi della valle e Nanabush comprese che i serpenti volevano annegarlo. Corse verso la collina più alta, chiamando a gran voce tutte le creature. Insieme costruirono una zattera e presero a fluttuare sulle acque, che in poco tempo coprirono la terra. Dopo un mese alla deriva. Nanabush capì che il vecchio mondo era scomparso e con esso il popolo dei serpenti. Si rivolse allora agli animali e domandò se qualcuno voleva nuotare fino al fondo e raccogliere un po' di terra. Si offrì la lontra. Nuotò nelle profondità, ma dovette arrendersi. «Il mondo è troppo lontano», disse con voce rotta. Tentò il castoro, ma fallì anche lui. «Il mondo è troppo in basso», singhiozzò. Infine si tuffò il topo muschiato. Rimase sotto così a lungo che tutti pensarono fosse morto. Poi l'aquila si alzò in volo. «Guardate là!» E il corpo del topo galleggiava sulle acque. Nanabush lo raccolse, lo asciugò, lo scaldò tra le braccia. E mentre cercava di riportarlo in vita, vide che aveva del fango sotto le unghie. Lo prese, ci fece una minuscola palla e la poggiò sull'acqua. «Cresci!» comandò. «Cresci!» comandò. E quella iniziò a gonfiarsi, finché fu abbastanza grande da ospitare due formiche. Nanabush le fece salire e quelle iniziarono a correre facendo girare la palla, che in questo modo cresceva più in fretta, finché non fu abbastanza grande da ospitare due topi. Nanabush li fece salire e quelli cominciarono a correre facendo girare la palla, che in questo modo cresceva più in fretta, finché non fu abbastanza grande da ospitare due cervi. Nanabush li fece salire e quelli cominciarono a correre e la fecero girare così forte che la palla crebbe ancora e ancora e ancora, finché non fu grande abbastanza da contenere gli uccelli, gli animali e gli esseri umani. E così Nanabush fece il mondo nuovo che ancora abitiamo. Andavo alle scuole elementari, la maestra mi diceva sempre che il difficile, se vuoi raccontare una storia, è trovare il punto d'origine, l'inizio. Ed è un po' come barare a un gioco, riferirsi a quando gli uomini inventarono il fuoco, quando abitavano le caverne. È troppo facile così. Noi, per cominciare questa storia, siamo partiti addirittura dalla creazione del mondo. Ancora più facile. Noi in realtà siamo partiti dalla creazione del mondo da parte di Nanabush, perché il metodo Nanabush ritornerà. Altrimenti avremmo potuto scegliere altri inizi. Per esempio, quando Hudson arrivò per la prima volta sulle coste di quelli che oggi sono gli Stati Uniti, cercando il passaggio a nord-ovest. Oppure quando un francese di nome Cadillac fondò la città di Detroit. L'uomo in rosso lavorava per il re degli olandesi. La consegna era navigare verso l'alba, trovare il passaggio per la Cina. Finito in un mare di ghiaccio, non si arrese. Cambiò rotta per un altro passaggio. Sempre la Cina, ma sulla scia del tramonto. Yoskoda era un guerriero degli Ottawa e non lavorava per nessuno. A caccia con altri giovani vide spuntare il sole da un alto crinale. Sembrava di poterlo toccare e qualcuno lo disse. Gli altri risero e Yoskoda promise. Li avrebbe condotti alla casa del sole. L'uomo in rosso batté le coste d'America e alla foce di un grande fiume sbarcò. Al sacro ritmo dei tamburi, accolto con sacrifici, danze e invocazioni, Yoskoda e i suoi partirono di nascosto, a piedi, in canoa, fino alla grande acqua salata. Sulla spiaggia Yoskoda sognò di solcare l'oceano, su un'isola galleggiante, fino alla casa del sole. L'uomo in rosso propose un brindisi, ma i capi si passavano il bicchiere e nessuno beveva. Si fece coraggio un guerriero, scolò, cadde a terra, parve morto. Poi tornò in piedi e ne volle ancora. ne volle per tutti. Al mattino, Yoskoda vide il sole uscire dal mare e un'isola scivolare sull'acqua. A colpi di pagaia la raggiunsero e gli uomini che la abitavano diedero il permesso di approdare. Poi l'isola si mosse verso la casa del sole. In cambio del whisky, l'uomo in rosso chiese un poco di terra. Quanta ce ne poteva stare dentro una pelle di vacca? La prese, la mostrò e i capi sorrisero. Yoskoda e i suoi giunsero alla terra di là dal mare. Su una slitta con le ruote, trainata da un alce senza corna, li condussero dal re dei francesi. Yoskoda spiegò la ragione del viaggio e il re lodò tanta arditezza, ma disse che non c'era speranza. Non si poteva raggiungere la casa del sole. L'uomo in rosso prese un coltello, tagliò dalla pelle di vacca una lunga striscia sottile e con quella tracciò il confine della sua nuova proprietà. I capi continuarono a sorridere, sapevano apprezzare l'astuzia e la terra allora non mancava. Gli amici convinsero Yoskoda a tornare. Viaggiarono per molte lune e il villaggio li accolse con grandi feste. Tutti erano felici, tutti, tranne Yoskoda. L'uomo in rosso partì, ma non tornò mai alla foce del fiume. Cercò ancora il passaggio, incontrò ancora il ghiaccio. Allora la ciurma, per non dover proseguire, lo abbandonò su una scialuppa e nessuno lo vide più. Anni dopo battezzarono il fiume con il suo cognome, il fiume Hudson. Yoskoda morì sull'alto crinale, gli occhi rivolti a oriente. Ogni giorno, per 40 primavere, era salito lassù, all'alba, per toccare il sole, per ringraziarlo di non avere una casa. Prima Hudson, poi Cadillac. Nelle terre al confine tra gli Stati Uniti e il Canada, in quei tempi si avvicendavano continuamente inglesi e francesi. A un certo punto, in quella che in Europa venne chiamata Guerra dei Sette Anni e in America si chiamò Guerra Franco-Indiana, i francesi dovettero cedere il Canada agli inglesi. E questo avvicendamento portò a grandi squilibri nel rapporto con le nazioni dei nativi americani. Il francese che fondò Detroit ha dato il suo nome a un'automobile. Peccato che il nome non fosse suo. Lui si chiamava soltanto Antoine Lomé. Soldato di Guascogna come il poeta Cyrano, appena sbarcato in America si fece passare per un nobile delle sue terre, Antoine Lamotte. Come stemma copiò lo scudo dalla villa dei Lamotte. Diventò luogotenente, poi capitano. Sposò la figlia di un pirata e nel contratto si firmò Antoine de Lamotte, Sieur de Cadillac. Il governatore della Nuova Francia si lasciò incantare da tanti nomi e regalò un po' di terra al signore di Cadillac, tra il fiume Donaquec e l'isola di Mount Desert. Promosso comandante di un forte nell'estremo occidente, ci rimase 3 anni prima di convincersi che non era adatto a una persona del suo rango. Antoine de Lamotte, Sieur de Cadillac, Donaquec e Mount Desert. Ottenne dal cancelliere di Francia di muovere la guarnigione e costruire un nuovo forte sullo stretto tra i laghi Huron e St. Clair. Nel francese di allora stretto si diceva Detroit. Così nacque Detroit e 200 anni dopo la compagnia d'automobili col nome e lo stemma di un signore francese che in realtà era il nome di un villaggio sperduto vicino al paese natale di Antoine Lomé. Sieur de Cadillac. signore di Vaudreuil, ha l'onore di informarvi che a Détroit ci sono soltanto 63 case, in luogo delle 120 dichiarate dal signore di Cadillac. E quanto ai selvaggi, ci sono circa 150 capanne, invece delle 1200 che il signore di Cadillac vi ha descritto, e che il totale dei coloni è di 63, di cui 29 sono soldati sposati con indiane. Il signore di Cadillac è il maggior colono di Détroit, poiché possiede 157 ettari di terra, mentre tutti gli altri insieme ne hanno 46, così che il signore di Cadillac riesce a vender loro persino il pane, a 10 soldi la libra. Detto signore di Cadillac ha abusato della vostra fiducia, dicendo che a Détroit c'è molto bestiame. Ci sono in effetti 3 vacche, 7 tori e un cavallo. E non sarebbe un vantaggio per il signore di Cadillac se ce ne fossero di più, dal momento che vende il suo latte per 20 soldi a vaso e affitta il cavallo a 10 lire per giorno. Il signore di Vaudreuil è sorpreso che il signore di Cadillac si sia azzardato a proporvi di istituire qui un ufficio notarile, perché in tal modo si priverebbe del guadagno di 4 lire per ogni concessione di terra da lui eseguita in esclusiva. Infine, il signore di Vaudreuil ritiene impossibile formare un reggimento con 4 compagnie di selvaggi, come richiesto dal signore di Cadillac, con l'evidente intento di lucrare sulle loro paghe. Fin qui le parole. Quanto ai fatti, o ha ragione l'uno o ha ragione l'altro. Agli storici l'ardua sentenza, a noi il sospetto. Il francese che fondò Detroit iniziò a mentire appena sfiorato il suolo d'America. Terra d'opportunità, terra di bugie. Antoine de la Motte, Sieur de Cadillac. Una delle differenze più importanti tra francesi e inglesi era proprio che gli inglesi davano un altro significato ai regali che di solito i francesi facevano ai capi delle nazioni native. Li trovavano delle forme di ossequio che una razza superiore non deve concedere a una razza inferiore. Per gli indiani invece avevano tutt'altro significato il fatto che gli inglesi smettessero a un certo punto di omaggiarli con quei doni, portò i capi delle nazioni Ojibwe e di altre nazioni nella regione dei Grandi Laghi a convocare un concilio per decidere se muovere guerra contro gli inglesi. Tutto qui, maggiore? Siete venuto apposta da Montreal per portare questa miseria? L'ufficiale non si scompose. Osservava il duello tra il vento e la bandiera del regno, come si guarderebbe rapiti un incontro di pugili. Quanto sarà? 100 sterline di roba? 120, capitano. Gli ultimi denari che il generale Amherst intende regalare ai selvaggi. Ah, davvero? Dio sa quanto lo invidio. Stessi a Filadelfia l'avrei presa io questa decisione, ma purtroppo sto a Fort Detroit e qui senza lisciarsi le tribù non si va da nessuna parte. Al contrario, capitano Glodwin, sono gli indiani che non vanno da nessuna parte senza i nostri fucili. Ebbene, se li guadagnino. I mendicanti sono la rovina di Londra. Non vorrete diffondere il morbo anche qua giù? Il morbo lo hanno diffuso i francesi da queste parti. E gli indiani non mancheranno di farci notare quant'erano più generosi i vecchi inquilini del forte. Ah, che si fottano, i mangiarane. In Inghilterra si fanno regali per 2 motivi: per sdebitarsi con qualcuno che ti ha fatto un favore o per ingraziarsi qualcuno che potrebbe non fartelo. Io credo che gli indiani li intendano piuttosto come attestati di stima. Beh, un motivo in più per farla finita. Far credere che Sua Maestà li tiene in un palmo di mano non può che ingigantire la loro arroganza. Avete ragione. E poi non vorrei pensaste che intendo oppormi a un provvedimento che ritengo sacrosanto. Anzi, se per voi sta bene, propongo di considerarlo retroattivo. Interessante. E di questa roba, capitano, che ne fareste? L'avete detto voi che se la devono guadagnare. Meglio farli abituare da subito. Ottima proposta. Quanto al nostro di guadagno, come volete fare? 50 e 50? Benvenuto, fratello Pontiac. Sono felice di incontrarti. Spero che tu lo sia altrettanto. Sono felice che siate qui per riparare al torto e punire i mercanti che hanno truffato i miei uomini. È ciò che intendo fare, secondo la legge inglese. Anche se furono gli indiani a chiedere il rum e scolarlo fino all'ultima goccia. E allora? Forse per la legge inglese, se uno raggira un bambino, è meno ladro di un borsaiolo. I vostri mercanti sono disonesti. I mercanti francesi non erano così. In ogni popolo c'è del buono e del marcio, fratello. Anche tra gli indiani. Se avete del buono, perché non lo mandate qua? Questi sono farabutti, disonesti, senza cervello. Credono che gli indiani siano cani. Il vostro re farebbe meglio a tenersi questa gente nel suo paese e a mandarci quelli buoni. E voi fareste meglio a badare alla vostra lingua. Da quando in qua consigliate al re d'Inghilterra quel che dovrebbe o non dovrebbe fare? I regali del padre inglese vi hanno reso arroganti. D'ora in poi ve li dovrete guadagnare. D'ora in poi? Fratello, quelli che voi chiamate regali, noi li chiamiamo risarcimenti. Aver sconfitto i francesi non vi dà alcun diritto su questi boschi, questo fiume, il lago. I francesi se ne servivano e in cambio mandavano al villaggio un fabbro per riparare i fucili, un maestro per educare i figli e un manto nero per riferirci le parole del padrone della vita. Quando c'era un torto da appianare, essi lo risarcivano, per se stessi o per noi, affinché la vendetta non turbasse gli scambi e la pace. Voi avete sconfitto i francesi, eppure non potete andare in Francia senza portare doni al grande re, obbedire alle sue leggi e rispettare il suo popolo. Perché con gli Ottawa dovrebbe essere diverso? Abbiamo offerto le nostre case ai vostri mercanti, la nostra tavola ai viaggiatori, le nostre guide ai soldati e agli uomini che volevano conoscere queste terre. Ogni volta che ci rivolgiamo a un inglese, abbiamo imparato a dire grazie due volte. Perché non si pensi che siamo violenti e irascibili? Quelli che chiamate regali erano il vostro modo di dire grazie. Anche se una volta soltanto. Ed ecco il metodo Nana Bush che ritorna. Da un lato usare l'astuzia quando il nemico è troppo forte, usare un discorso ben congegnato o uno stratagemma, e dall'altro servirsi di alleanze come fece Nana Bush con gli animali quando dovette ricostruire il mondo nuovo che ancora abitiamo. Gli indiani, grazie al metodo Nana Bush, attaccarono 12 forti della regione dei Grandi Laghi. 3 riuscirono a resistere però, e in particolare riuscì a resistere Fort Detroit, perché a quanto pare c'era una donna nativa che si era innamorata di un colonnello inglese e lo avvisò dei piani dei capi nativi. Così Pontiac e gli altri dovettero assediare il forte, e l'assedio era un tipo di guerra che non era congeniale ai nativi americani, era un tipo di guerra all'europea. Ecco perché Pontiac cercò di convincere i tanti coloni francesi che continuavano ad abitare nella zona di Fort Detroit a combattere contro i nuovi padroni inglesi. Pontiac fuma sotto un salice, in riva al fiume delle Cortecce. Alle spalle centinaia di tende punteggiano la spianata. Deve convincere gli indecisi, eccitare gli animi, additare a molte nazioni il sentiero di guerra, dimostrare che gli inglesi non sono così forti, non fanno paura. I serpenti erano giganti mostruosi, ma Nana Bush li sconfisse con l'astuzia. Poi dovette rifare cielo e terra. Quando il nemico è molto forte, non basta vincerlo. Bisogna saper sognare un mondo nuovo. Come ha fatto Neolin, il profeta dei Delaware, che da anni affascina uomini e donne con la sua visione. Dice che il padrone della vita è in collera con i suoi figli rossi. Li vede ubriachi, superstiziosi, infedeli, divisi. Per questo la caccia è scarsa e i suoi figli rossi sono schiavi dei bianchi. Devono mantenersi sobri, pregare lui soltanto, amare la stessa donna tutta la vita e stare uniti. Egli allora farà uscire le prede dal folto del bosco e non serviranno più fucili per sfamare i villaggi. Si caccerà con arco e frecce e i bianchi, senza più alcol e fucili da vendere, torneranno da dove sono venuti. A Pontiac non dispiace come idea, ma sa che i bianchi non se ne andranno da soli. Purtroppo, il padrone della vita non ha detto a Neolin di combattere gli inglesi, allearsi ai francesi. È il padrone della vita. Come potrebbe chiedere la morte di qualcuno? Pontiac non sa rispondere, ma sa che gli inglesi sono convinti che il loro Dio non è lo stesso dei francesi. Mentre i francesi dicono che il loro è nato a Parigi ed è stato ucciso a Londra sulla croce. I bianchi sono convinti che Dio può desiderare la morte di un uomo solo perché è nato in Francia o in Inghilterra. Nana Bush sconfisse i serpenti galleggiando sull'acqua, lasciando che la loro stessa arma li sommergesse. Pontiac sconfiggerà gli inglesi usando Dio alla maniera degli inglesi. Dirà che Neolin ha sognato il Dio dei francesi, l'unico e vero padrone della vita. Gli inglesi lo odiano, non fanno che ripeterlo, così egli, prima di ridare ai suoi figli una buona caccia, vuole che vengano cacciati gli inglesi. Pontiac si alza, batte la pipa contro il palmo. È pronto a parlare. Quando il nemico è molto forte, non basta vincerlo. Serve la parola di Dio. Discorso in cui Pontiac dichiara di essere ancora più francese dei francesi stessi è considerato un capolavoro di retorica da parte del capo nativo. Ma furono troppo pochi i francesi che decisero di combattere insieme con gli indiani contro gli inglesi. E così per Pontiac la strategia dovette cambiare e dovete andare a cercarsi alleanze a molte, molte miglia di distanza, allargando la guerra e cercando di impegnare gli inglesi su più fronti. Signore, come già vi scrissi, circa 600 indiani Ojibwe si sono accampati intorno al forte per festeggiare il genetliaco di Sua Maestà, fare buoni commerci e sfidare la guarnigione nel loro gioco di palla, quello che i francesi chiamano lacrosse. I capi volevano mettere in palio per il vincitore 200 pelli di castoro e mi chiesero di fare altrettanto con merci di uguale valore. Al che risposi che un vostro ordine vieta di cedere a un indiano merci e beni che non siano guadagnati o acquistati. E poiché una sfida di lacrosse non rientra in nessuno dei due casi, che usassero pure le pellicce per scommettere tra loro. I capi allora le depositarono ai miei piedi e dissero di considerarle lo stesso come premio della sfida. Lo scopo del gioco consiste nell'impadronirsi della palla con una specie di mestolo per portarla o lanciarla oltre la soglia difesa dagli avversari. Non ci sono altre regole e qualunque cosa accada alla palla i giocatori non smettono di inseguirla. Se cade in acqua si tuffano, se finisce oltre una palizzata la aggirano, la scavalcano, la abbattono. Se entra nel camino di una casa non esistono porte o finestre che possano contenere la caccia. Dopo circa 3 ore di corse, lanci e mischie furiose, un guerriero indiano adorno di colori e code di volpe, nel tentativo impossibile di segnare il punto da oltre 400 yard, fece cadere la palla all'interno del forte. I nostri uomini si lanciarono all'inseguimento e, trovandosi in testa, fecero segno a quelli dentro, che assistevano allo spettacolo dai bastioni, di aprire il portone per permettere al gioco di proseguire. Almeno 200 uomini si riversarono dentro come una mandria al galoppo. Dalla mia postazione vidi però che gli indiani rallentavano, affiancati da donne e bambini che fino a quel momento avevano assistito alla sfida. Vidi le donne sfilare da sotto coperte e vestiti fucili dalle canne mozzate, mentre i bambini distribuivano tomahawk e coltelli. Prima che riuscissi a dare l'allarme, qualcuno strisciò alle mie spalle, mi catturò insieme al maggiore e insieme ci condussero nella foresta. Soltanto il giorno seguente, grazie all'intercessione dei nostri interpreti, riuscimmo a visitare il forte. I capi Ojibwa ci mostrarono le pellicce che avevano lasciato in pegno per il gioco e dissero che gli era sembrato giusto riprenderle, visto che la sfida si era conclusa con la loro vittoria. E poiché nessuno aveva indicato loro quale fosse la nostra posta, avevano dato per scontato che consistesse in tutto quanto era in nostro possesso, cioè l'intero forte, e per questo se l'erano preso. L'uomo cui affido questa lettera potrà raccontarvi altri dettagli di questa triste vicenda, dove il nemico ha avuto la meglio sui soldati di Sua Maestà solo grazie all'inganno, alla pigliaccheria e al coinvolgimento di donne e bambini in un affare di guerra. Sperando di avere presto vostre notizie, rimango sempre, mio caro signore, il vostro servo devoto. Appena firmata la pace tra Pontiac e gli inglesi e il commissario agli affari indiani William Johnson, subito saltò su qualcuno a dire che Pontiac non rappresentava tutti quanti, che Pontiac lo faceva perché gli inglesi gli avevano promesso chissà cosa, gli avevano fatto grandi regali e infine, per screditare la pace, qualcuno disse anche che Pontiac era stato il mandante di un terribile omicidio di una bambina di nome Betty Fisher. Fra fratelli miei, fino a quando sopporterete che questa carne cattiva resti a marcire sulle vostre terre? Ve lo dissi un tempo, e ora lo ripeto, quando ha levato l'ascia da sottoterra, Pontiac l'ha fatto per voi. Il padrone della vita vuole che gli inglesi lascino il Canada, oppure che muoiano. Eppure voi, che lo conoscete meglio di Pontiac, proprio voi offendete la sua volontà. Finora sono rimasto zitto, non vi ho spinto a entrare in guerra al nostro fianco. Mi bastava che rimaneste buoni, seduti sulle coperte a guardarci combattere al posto vostro. Ma voi no? Dite di essere nostri amici e invece prestate aiuto agli inglesi, con provviste e spie conficcate nel cuore dei villaggi. Così non può continuare. Dovete decidere. O siete francesi del tutto, oppure siete del tutto inglesi. Se siete francesi, accettate questo wampum e assediate il forte insieme a noi. Ma se siete inglesi, allora vi dichiariamo guerra. Fratelli miei, lo so che è dura. Siamo tutti figli del grande padre, il re di Francia. E voi, da più tempo di Pontiac. Ed è terribile combattere tra fratelli per colpa di cani. Ma non c'è scelta. Io sono francese e morirò francese. Guardate questo wampum e fate udire la vostra risposta. Raccontarvi questa storia, abbiamo sfogliato tutti i documenti che siamo riusciti a trovare sulla vicenda di Pontiac, di Betty Fisher e di Alexis Cuillerier, ma non siamo riusciti a farci un'idea. Alla fine i giudici assolsero Pontiac e anche noi non abbiamo trovato ulteriori elementi per dire se fosse colpevole oppure no. Quel che resta è la domanda che il processo aveva sollevato. Che cosa siamo? Dipendenti, clandestini, stranieri, bestie, tribù? Due cinture di wampum. Una viene dai Seneca, l'altra dai Delaware. Cilindri ricavati dal cuore di conchiglie si alternano su otto file per formare sagome di uomini e figure geometriche. Disegni bianchi e sottili su sfondo nero, il colore della guerra. Dai grandi laghi fino al delta del Mississippi, le voci dei selvaggi si intrecciano e gonfiano i muscoli, affilano i coltelli, evocano spettri di soldati francesi. Dal fiume Ohio a Filadelfia, perle di vetro e conchiglie si intrecciano, celebrano vittorie, offrono alleanze, grondano sangue inglese. Da Fort Detroit a Nuova York, verità e menzogna si intrecciano, nel solito ordito che veste la guerra. Circola una lettera, firmata dal governatore della Nouvelle-Orléans, piena di errori di grammatica e di vocabolario. L'esercito francese è già in marcia, dice, per affiancare i ribelli. La notizia viaggia, da bocca a orecchio, da wampum a pupille. Pontiac dovrebbe esercitarsi con la scrittura, ma lingua e conchiglie non fanno errori di ortografia. E i Seneca, una delle sei nazioni irochesi, fedeli alleati di Sua Maestà Britannica, i Seneca li hanno uccisi davvero 25 soldati inglesi, lungo il trasbordo che chiamano a quattro zampe, per via della posizione che bisogna assumere, con le canoe sulle spalle e le provviste per gli assediati di Fort Detroit. Li hanno davvero uccisi. E ora i Mohawk, irochesi anche loro, dovranno inchinarsi a Re Giorgio. non puniranno i Seneca, che sono loro fratelli, ma pesteranno i ribelli Delaware, che sono le loro donne. In realtà, i Mohawk non sono avvezzi a picchiare le donne, nemmeno quando sbagliano. Ma gli inglesi sì, anche senza ragione. E per i Mohawk, alleati degli inglesi, è giunto il momento di essere inglesi. Circola pure un'altra lettera, senza errori di ortografia, firmata dal comandante in capo, Jeffrey Amherst. Farete bene a infettare gli indiani, servendovi di lenzuola tra le quali si siano coricati dei malati di vaiolo, oppure di altri mezzi utili a sterminare questa razza maledetta. Sarei molto soddisfatto se il vostro piano di dar loro la caccia coi cani risultasse realizzabile. L'unico indiano buono è quello morto. Per quelli che vogliono vivere, è giunto il momento di essere inglesi. Noi, Matthew Smith e James Gibson, in rappresentanza di noi stessi e dei fedeli e leali sudditi di Sua Maestà, abitanti delle contee di Lancaster, York, Cumberland, Berks e Northampton, domandiamo umilmente il permesso di presentarvi le seguenti rimostranze, confidando nella vostra saggezza per una pronta risposta. Negli ultimi anni, le frontiere di questa provincia sono state oggetto di ripetuti attacchi e incursioni di indiani, che con crudeltà selvaggia hanno ucciso uomini, donne e bambini, lasciando quasi 1000 famiglie in condizioni disperate. Non possiamo non osservare con dolore e indignazione che alcuni abitanti di questa provincia si sforzano invece di sminuire la barbarie dei selvaggi. Chi mai dichiara guerra a un pezzetto di nazione e non alla nazione intera? Se gli indiani buoni disapprovano la perfidia della loro tribù e desiderano mantenersi in amicizia con noi, perché non ci hanno avvertiti della guerra prima che scoppiasse, dal momento che essa fu il risultato di lunghe deliberazioni? Perché non hanno abbandonato subito la loro tribù e non sono venuti da noi prima che ci fosse motivo di sospettarli? No, essi sono rimasti, consapevoli di assassini e saccheggi. Finché non gli abbiamo distrutto le provviste, allora sono venuti, e non come disertori, ma come amici da mantenere durante l'inverno, così che ci possano scalpare e massacrare a primavera. Crediamo estremamente pericoloso per le nostre frontiere sopportare che gli indiani vivano nelle zone abitate di questa provincia, poiché l'esperienza insegna che sono tutti perfidi, e le loro pretese di indipendenza e libertà li mettono in condizione di passare informazioni al nemico e di rifornirlo con provviste e armamenti. Nell'ultima guerra indiana questa provincia pagava una taglia sugli scalpi di indiani per incoraggiarne la caccia, quale mezzo più efficace per distruggerli e ridurli alla ragione. In questa guerra invece non si è dato alcun incentivo del genere, ma qualcosa ha fiaccato lo spirito di molti uomini di coraggio, desiderosi di rischiare la vita in spedizioni contro il nemico. Pertanto chiediamo che per gli scalpi di indiani venga istituita una pubblica ricompensa, adeguata ai pericoli che attendono una simile impresa. Firmato in rappresentanza di noi stessi e per procura di un gran numero di abitanti della frontiera, Matthew Smith e James Gibson. Non ci fu una pace soltanto, non ce n'è mai una sola. Il colonnello Bradstreet guidò la prima offensiva. 1200 britannici, 600 Mohawk, e a giugno, sulla riva dei laghi, trattò la pace. I Delaware cedevano terre, promettevano di arrestare chi non stava ai patti per farlo giudicare da un tribunale, metà inglese, metà indiano. 20 giorni dopo, la pace era carta straccia. Bradstreet doveva spaccare il culo, non fare trattati. Gli irochesi che stavano con lui dovevano trattare i Delaware da donne, dar loro un po' di cazzo, non permettere che cedessero terre. Quelle terre erano degli irochesi. Gli irochesi erano amici degli inglesi. Le terre dei miei amici sono pure terre mie. O no? a dire il vero, per gli irochesi le terre sono delle donne. La terra è madre. Gli irochesi avevano davvero trattato i Delaware da donne. E poi cos'era quella buffonata del tribunale, eh? La legge si usa per i sudditi. E se i Delaware lo erano, andavano appesi alla forca per alto tradimento. Già. Ma se non erano sudditi, che altro potevano essere? Dipendenti, clandestini, stranieri, bestie, tribù. Non ci fu una pace soltanto. Non ce n'è mai una sola. Malati di vaiolo e a corto di munizioni, i ribelli affrontarono la seconda offensiva, guidata dal colonnello Bouquet. 1200 uomini, pochi irochesi, con l'obiettivo di estirpare i nemici se non avessero accettato la pace. Un lavoro lungo, troppo lungo, con l'inverno alle porte. Così Bouquet chiese di incontrare i capi delle nazioni indiane, ma non tutti insieme, una nazione alla volta. Sudditi, dipendenti, stranieri, clandestini, elementi della fauna, qualsiasi cosa fossero, dovevano tornare a separarsi. Bestie Delaware, bestie Shawnee, bestie Irochesi, bestie Ottawa. Bouquet chiese di restituire i prigionieri, non solo dell'ultima guerra, ma di tutte, a partire da quella dei 7 anni. Non dovevano esserci sudditi bianchi in mezzo alle cose indiane. Così un bambino inglese di nome Wayne Dohela, che nessuno ricordava più come si chiamasse davvero, lasciò in lacrime chi lo aveva accudito per 6 anni, attese in orfanatrofio che qualcuno lo passasse a prendere, e infine venne acquistato da una nobile famiglia di Filadelfia e lavorò come servo a contratto fino a guadagnarsi la libertà, i capelli bianchi e una vecchiaia annegata nel rum. Non ci fu una pace soltanto. Non ce n'è mai una sola. La terza pace è quella dei libri di storia. Pontiac e il commissario Johnson a Fort Ontario. Molti regali. Niente cessioni di terre. Molte richieste. Niente scambi di prigionieri. Molte parole. Nessuna per definire cosa fossero gli indiani. Dipendenti, clandestini, stranieri, bestie, tribù. Non ci fu una pace soltanto. Non ce n'è mai una. Sola. Era l'inverno del 63, giura il testimone. Quando Pontiac si è ritirato da Detroit, io e il mio amico Alex abbiamo deciso di andare con lui, per paura che intorno al forte si restava in pochi. E poi, voi inglesi, ve la facevate con noi altri francesi. Siamo andati, e siccome il padre di Alex era uno importante, stavamo nella capanna di Pontiac. La bimba inglese si chiamava Betty, e c'era una donna che si prendeva cura di lei come se fosse sua figlia. Può darsi che l'aveva adottata. Gli indiani lo fanno spesso coi prigionieri. Insomma, era inverno. La piccola stava poco bene, aveva la febbre, batteva i denti. A un certo momento si è cagata addosso. Allora la donna l'ha spogliata, ma poi non c'erano altri vestiti e nemmeno coperte. Così ha depositato la piccola, nuda, vicino al fuoco, in mezzo agli adulti che si scaldavano e fumavano la pipa. Poi è andata al fiume a lavare i panni. La bimba intanto stava ancora male, ha cagato di nuovo. E siccome era sdraiata vicino a Pontiac, gli ha sporcato la coperta. Quello di sicuro aveva bevuto, non so. Fatto sta che si è alzato come una furia. Ha preso la bimba per le braccia e l'ha trascinata fuori. Io e Alex l'abbiamo seguito. Ma quello non sentiva ragioni, è andato in riva al fiume e ha buttato la piccola in acqua. Mentre tornava al caldo, ci ha ordinato di seppellirla. Alex gli ha fatto notare che la bimba si agitava ancora. E Pontiac ha risposto che allora la dovevamo annegare, poi seppellire. Tanto moriva comunque, e almeno così ci risparmiavamo un sacco di noie e di puzza di merda. Noi abbiamo provato a rifiutarci, ma quello non ci sentiva, e in tempo di guerra, lo sapete, non si può disobbedire a un generale. Così il mio amico Alex ha annegato la bimba. Abbiamo scavato insieme la buca. E quando l'abbiamo calata dentro, lei ha mosso le gambe. Ha scalciato Alex in faccia, come per dire che da allora voleva perseguitarlo fino all'eternità. Quattro anni più tardi, a pace fatta, decidi di andare a Detroit. Tu, Pontiac. Le testimonianze nel frattempo sono aumentate e raccontano tutte la stessa storia. Poche frasi e ti rifiuti di ascoltare. Non sei venuto per difenderti, per dimostrare che è un complotto, ma per chiedere libertà per l'amico Alex Guillerier che sta in galera. Impossibile, dicono. Il francese è suddito di Re Giorgio, deve rispondere davanti alla legge inglese. Ma tu puoi stare tranquillo. Sei il capo di una nazione, hai fatto la guerra al re, ma ora la pace ha ricomposto ogni offesa, ogni morte. Già, Alex Guillerier ha commesso un delitto nel territorio della tua nazione. Se il capo di quella nazione sei tu, vuoi essere tu a giudicarlo. Non sanno cosa risponderti. Non sanno cosa sei. Dipendente, clandestino, straniero, bestia, tribù. Nessuno sa rispondere. Il caso è chiuso. Questa era la storia di una rivolta, anche se qualcuno l'ha chiamata cospirazione e qualcun altro semplicemente guerra. Di solito le rivolte sono senza nome, le si ricorda per data di nascita e nazionalità. Il 68 francese, il 77 bolognese, la rivoluzione d'ottobre, il 48, i moti del 2021, Genova 2001. Altre volte indossano lettere maiuscole. E il loro nome comune diventa mito. La lunga marcia, la rivoluzione dei garofani, la resistenza. Ma un nome proprio, nel senso di proprietà, non ce l'hanno davvero. Le rivolte sono di molti, oppure niente. Passano da un luogo all'altro, ma non si accasano mai. E nessuno può dar loro il suo cognome. Se qualcuno glielo affibbia, è perché vuole vederle finire in fretta. Se catturi Spartaco, puoi dire di aver sconfitto la rivolta di Spartaco. Anche se nel film di Kubrick c'è quella scena col centurione romano che chiede «Chi di voi è Spartaco?» e gli schiavi si alzano uno alla volta. «Io sono Spartaco, io sono Spartaco, io sono Spartaco». Così, il tuo nome a questa rivolta devono averglielo dato i nemici. Gli stessi che poi l'hanno dato pure a un'automobile. La producono ancora la Pontiac, nella stessa città dove fanno la Cadillac. Motor City, Detroit. Com'è andata a finire l'hanno raccontato in molti, anche quelli che non lo sapevano affatto. Ti hanno ammazzato nel bosco o in un forte dell'Illinois. Ti hanno ammazzato per invidia o per vendetta o gelosia. È stato il marito di un amante o il nipote di un uomo che avevi bastonato. C'è lo zampino degli inglesi o è solo colpa del rum. Di sicuro non eri al tuo villaggio, pare ti avessero cacciato. Dicevano che t'eri venduto, che non volevi più combattere solo perché ti trattavano da gran capo e ti riempivano di regali che avresti dovuto spartire. Hai avuto molte morti, e non è strano, per uno che sapeva essere Ottawa e francese, profeta dell'arco e guerriero col fucile, devoto a Geova e a Nana Bush. Hai avuto molte morti, ma non la risposta che cercavi. Nemmeno a me importa chi sono. Italiano, Ottawa, francese, inglese. Uno da solo può anche vantarsi di essere clandestino. Ma devo sapere cosa siamo. Alleati, cittadini, stranieri, dipendenti, bestie, precari, tribù. Devo sapere cosa siamo. Perché non sia precaria, straniera. La dignità.